America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The day after, il giorno dopo, in questo caso è il giorno dopo le elezioni. Washington è così un po' terremotata da un risultato politico che ha premiato i repubblicani e ha messo in difficoltà il presidente Obama. Now, I ran for this office to tackle these challenges and give voice to the concerns of everyday people. Over the last two years we've made progress, but clearly too many Americans haven't felt that progress yet. Avete sentito il presidente che ieri è intervenuto in una conferenza stampa dalla Casa Bianca, che parla del tema dominante, cioè l'economia. Devo dire, ieri in questo incontro con i giornalisti si è parlato soprattutto di temi economici o comunque di temi periferici all'economia, per esempio la riforma sanitaria, ma ci siamo resi conto che tutto sommato per ora una vera e propria ricetta non c'è, e dunque la palla proprio ieri è passata alla Federal Reserve con una delle decisioni più importanti degli ultimi anni, Banca Centrale Americana, che di fatto si sostituisce al governo per stimolare la crescita e creare occupazione. The Fed has announced a $600 billion buyback of securities which will occur by the end of the second quarter of 2011. La Fed ieri, nel suo incontro tradizionale del Federal Open Market Committee, l'incontro del comitato monetario che si tiene ogni sei settimane, ha deciso non solo di tenere ovviamente i tassi invariati, non ha dato soltanto il solito quadro sull'economia che resta debole senza creare occupazione con bassa inflazione, ma ha formalizzato l'avvio della quantitative easing numero 2, dell'accomodamento quantitativo seconda versione. La prima fu decisa nel 2008, alla fine del 2008, doveva durare fino al marzo del 2010, un totale di 1.750 miliardi di dollari spalmati lungo questo anno e mezzo, interventi sul mercato che dovevano in qualche modo tenere stabile i titoli obbligazionari e allo stesso tempo immettere liquidità sul mercato in aggiunta a quella che veniva immessa dai tassi di interesse molto bassi. A marzo però questa operazione andava a finire, soprattutto a settembre è finito il pacchetto di stimoli dell'economia, un pacchetto di stimoli da 816 miliardi di dollari, era il pacchetto di stimoli di Barack Obama che purtroppo non ha funzionato e abbiamo visto in queste elezioni con quali conseguenze per l'amministrazione in carica. Ebbene, la Fed ieri ha annunciato altri 600 miliardi di dollari di interventi sul mercato obbligazionario da qui alla fine del primo semestre del 2011. Significa che da qui alla prima metà dell'anno prossimo ci saranno altri 850-900 miliardi di dollari che entreranno sul mercato. Il tempismo è perfetto perché nel momento in cui il tesoro non ha più quattrini da iniettare nell'economia, nel momento in cui a Washington non ci si mette d'accordo, i repubblicani resistono, vogliono ridurre il ruolo dello Stato, Barack Obama a sua volta resiste, e la Fed che alla fine fa la parte del leone, naturalmente con tutte le conseguenze del caso. Well, they've been significant. At the moment they haven't been necessarily effective, nor have they led to what either the Fed or the Treasury had hoped for at the moment. There's simply a lack of confidence in the market and lots of fear. Le conseguenze non sono necessariamente positive, ovviamente, anzi, secondo molti sono negative. Per esempio, Bill Gross, che avete appena sentito, ha detto che secondo lui questa manovra della Fed nel tempo porterà a una diminuzione del 20% del valore del dollaro. È una manovra, secondo alcuni, protezionista. Gli Stati Uniti vogliono spingere le loro esportazioni. È una manovra inflazionista. L'unico modo per poter ridurre la bolla che si è venuta a creare nel settore immobiliare è attraverso l'inflazione. Una decisione dunque controversa, perché intanto non è chiaro se funzionerà, e che sarà al centro dei negoziati al prossimo G20 in Corea. Listen, I hold these values dear because I've lived them. I spent my whole life chasing the American dream. Avete sentito John Boehner, il nuovo capo, o meglio, colui che sarà il nuovo capo della maggioranza repubblicana alla Camera, una maggioranza molto forte, con un messaggio per il presidente degli Stati Uniti. Il vento è cambiato, dunque bisognerà ridurre il ruolo dello Stato, basta con lo statalismo, bisognerà abolire addirittura il progetto di riforma sanitaria e così via. Abbiamo i microfoni di America 24, Christian Rocca, inviato del Sole 24 Ore qui a New York. Christian, buongiorno. Buongiorno. Dunque, intanto, è una provocazione quella di Boehner quando dice, aboliamo la riforma sanitaria? Non è una provocazione, è il programma elettorale. Loro hanno fatto questo Pledge to America poco prima delle elezioni e sulla base di questo hanno ottenuto i voti e hanno conquistato la maggioranza. Il problema è che Obama ovviamente sarà contrario e il Senato comunque rimane in mano ai democratici. È possibile che la Camera voti l'abrogazione della riforma sanitaria, ma Obama certamente la porrà il veto. Devo dirti, Christian, che nel vedere gli interventi sia oggi che ieri di Boehner e poi quello di oggi del presidente Obama, ho avuto come l'impressione che ciascuno sia molto rigido sulle sue posizioni. Obama sì, ha parlato di umiltà, ha detto che tutto sommato questa sconfitta gli ha insegnato qualcosa, però non ha ceduto, almeno formalmente. Che dici? Non è andato incontro, è vero, ai repubblicani? Sì, è vero. Prima o poi dovranno trovare un modo di un compromesso, una mediazione, un accordo. È molto probabile che all'inizio le due posizioni si estremizzino. Ovviamente la soluzione ideale sarebbe un aumento delle tasse per ridurre il deficit e in cambio l'abrogazione della riforma sanitaria, ma sarà difficile che le due parti accettino questo compromesso. Ma se vedo la necessità per Obama di andare verso il centro alla fine, di mostrarsi come un candidato, come un presidente centrista nell'estate del 2012, e quindi sono certo che dovrà fare un passo verso i repubblicani, con questa maggioranza vedo difficilmente possibile un passo indietro dei repubblicani. Ecco, il presidente Obama però ha aperto, mi ha colpito il fatto che su alcuni temi forti alla fine lo si vedeva fisicamente imbarazzato, cioè quando gli chiedevano bisogna ridurre il ruolo dello Stato, ecco, per lui è un credo assoluto, mentre uno come Bill Clinton tutto sommato era un pragmatico straordinario, veniva dal centrodestra, veniva dal sud, dal Democratic Leadership Council, dai Blue Dogs, ecco. Obama invece, non so se hai avuto la stessa impressione, ma oggi fisicamente sembrava rigido, sembrava uno che viene provocato proprio sul suo credo centrale. Obama è molto più ideologo di Clinton. Tu hai detto pragmatico Clinton, hai usato un buon aggettivo, se possono usare anche altri. E tra l'altro si era candidato la prima volta come un nuovo tipo di democratico, New Democrat, come un centrista. La terza via è stato poi lui, no? Che in qualche modo... Quindi diciamo lui era più portato naturalmente a trovare un terreno d'incontro con l'altra parte, con i conservatori. Può darsi che Obama faccia un'altra cosa, che vada invece a serrare le file della sua coalizione elettorale, mettere assieme gli studenti, gli afroamericani, gli ispanici, gli intellettuali, quelli che proprio hanno costruito la sua candidatura e la sua traiettoria politica, e arrivare alla battaglia del 2012 con i suoi galvanizzati ed entusiastici, che peraltro ha un precedente storico molto importante e altrettanto autorevole, che è quello del presidente Harry Truman, che nel 1946 perse le midterm in modo eclatante e poi nel 1948 riottenne la presidenza. Ultima domanda, Christian. Non è forse più responsabile per repubblicani e democratici unirsi contro la sfida che giunge dall'India, dalla Cina? Sono sfide che potrebbero mettere in difficoltà la potenza americana. Guarda, un decano dei giornalisti, degli analisti politici di Washington, David Broder, sul Washington Post l'altro giorno consigliava a Obama, per riottenere l'elezione del 2012, di confrontare duramente la minaccia iraniana, e su questo certamente avrebbe il consenso dei repubblicani, però insomma sono cose che speriamo di non augurarcelo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. C'è un gruppo newyorkese importante, gli gli Interpol, ebbene, sono in concerto, ma hanno deciso, per grande richiesta, di estendere a lungo il loro tour del Nord America. La notizia è di ieri. Ecco gli Interpol con Slow Hands, mani lente. Tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!